Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista degli animali. Notizie, cultura, musica, alimentazione e filosofia lungo l'orizzonte di una società non violenta. Parleremo di maiali e TV trash, di oranghi maltrattati e agnelli sacrificali, di come sarebbe il mondo se gli umani si nutrissero soprattutto di vegetali. Molti di voi avranno seguito la puntata di lunedì scorso di Report su Rai 3 e il servizio dedicato agli allevamenti di pellicce, ancora esistenti in Italia nonostante la riprovazione della maggioranza dei cittadini, che considerano ormai anacronistiche queste crudeli strutture. Il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci, ha concluso il servizio dicendo: «Non c'è nulla di etico nello scuoiare un animale per farne una pelliccia», smontando così la retorica e il marketing di alcuni grandi marchi della moda che si ostinano a sacrificare animali innocenti per produrre capi d'abbigliamento ormai superati dal tempo e dal sentire comune. Essere Animali, organizzazione che ha collaborato con Report per la realizzazione del servizio, informa che sono ancora attivi in Italia una ventina di allevamenti di visoni, nei quali sono uccisi ogni anno circa 160.000 individui. Già 12 paesi europei hanno superato o stanno superando l'industria delle pellicce, mentre in Italia non si è andati oltre la presentazione di alcune proposte di legge abolizioniste in Parlamento, proposte che però non sono mai arrivate a essere discusse. Sul sito di Essere Animali, essereanimali.org, è possibile firmare una petizione che chiede all'Italia di vietare gli allevamenti di visoni e di mettersi così al passo di quei paesi come la Norvegia, il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, l'Austria, il Belgio, l'Olanda, la Croazia, la Slovenia, che tale divieto hanno già adottato. Heart. sleep for a thousand years, a thousand dreams. La settimana scorsa abbiamo parlato dei consumi di carne e della possibilità di un cambiamento radicale e di massa nell'alimentazione, sull'onda della mobilitazione generale contro i cambiamenti climatici in corso. Va nella stessa direzione il rapporto It Lancet, sostenuto dalla prestigiosa rivista scientifica Lancet, frutto del lavoro di una commissione di esperti. Il rapporto appoggia l'idea di una dieta definita universale, pensata con un duplice obiettivo: da un lato migliorare la salute di miliardi di persone e dall'altro promuovere sistemi alimentari sostenibili sotto il profilo ambientale, e quindi con un occhio alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa dieta universale, secondo la commissione It Lancet, comporta la riduzione del 90% nei consumi di proteine animali, con un corrispondente incremento degli alimenti di origine vegetale. Non siamo al vegetarismo di massa, ma certamente assistiamo a una presa di coscienza da parte della comunità scientifica, che sembra essersi decisa a infrangere il tabù che ha portato finora a trascurare il peso degli allevamenti intensivi come causa dell'effetto serra, e quindi a prestare attenzione all'ampio margine di intervento legato a un cambiamento delle abitudini alimentari. Il rapporto It Lancet è stato però accolto molto male in Italia. Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, un ente che associa i maggiori produttori di carne, sostiene che non può esistere una dieta universale, in quanto ciascuno, parole sue, ha la propria dieta per tradizione e per costume locale. Quindi tradizioni e costumi, secondo Pulina, sono buoni e giusti di per sé. E però questo non basta, visto che il presidente di Carni Sostenibili ricusa anche la credibilità della rivista Lancet e degli esperti chiamati a far parte della commissione. Questo rapporto, dice Pulina, rappresenta il parere di una commissione di esperti, sicuramente autorevoli, ma che non hanno alcun titolo preferenziale per rappresentare la comunità scientifica internazionale, alle quali peraltro non hanno sottoposto il lavoro prima della pubblicazione. In verità è noto che la carne rossa è già stata inserita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'elenco delle sostanze sicuramente cancerogene, nella stessa categoria del fumo, e che la riduzione dei consumi di carne e la drastica riduzione degli allevamenti compaiono già come consigli, se non prescrizioni, in numerosi rapporti degli scienziati che si occupano dei cambiamenti climatici, ultimi quelli impegnati nella recente sessione dell'ONU a Nairobi. A parte queste intemerate in ambito scientifico contro gli esperti e contro Lancet, Carni Sostenibili fa il suo egregio lavoro di lobbying, che ha probabilmente raggiunto anche la Farnesina, visto che il nostro Ministero degli Esteri ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità di non sponsorizzare la presentazione del rapporto It Lancet, perché le raccomandazioni che contiene comporterebbero, secondo il nostro Ministero degli Esteri, rischi economici seri per la filiera della carne e anche rischi per la salute umana, in quanto, stando alla Farnesina, la cosiddetta dieta universale sarebbe fortemente deficitaria sotto il profilo nutrizionale. Come si vede, i non esperti, che siano produttori di carne o funzionari del corpo diplomatico, non gradiscono le osservazioni degli studiosi e premono affinché nulla cambi e ogni allarme, ogni proposta, ogni ipotesi di intervento sia neutralizzata. Tutto deve rimanere com'è. È un ritornello, dobbiamo riconoscerlo, che ha forti probabilità di successo, perché poggia sulla forza della passività, dell'abitudine, del conformismo. Eppure, aggiungiamo noi, non è detta l'ultima parola. Se tutta l'umanità sparisse, il mondo potrebbe rigenerarsi. Se sparissero gli insetti, l'ambiente crollerebbe nel caos. Lo afferma l'entomologo Edward Osborne Wilson. Il settimanale The Economist di recente si è occupato della diminuzione degli insetti, che fino adesso ha fatto crollare il numero di uccelli insettivori, ma non le rese agricole. L'articolo mette in luce che è bene prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi, perché gli animali comunque hanno valore indipendentemente da qualsiasi contributo economico diano. E inoltre l'ecologia prima o poi presenterà il conto. Qualche giorno fa, il 23 marzo, Franco Battiato ha compiuto 74 anni e mi fa piacere proporvi un brano in cui fa un parallelo tra uomo e insetto. Shock in my town. Senza più passato di neoprimitivi, rozzi cibernetici signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, velvet underground. Ho incontrato shocking my town, allucinazioni. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. La storia e la cronaca dei maltrattamenti sugli animali sono parte della nostra vita quotidiana. Molti, forse i più, non se ne curano. Altri ne soffrono. La LAV, Lega Antivivisezione, la maggiore organizzazione animalista del nostro paese, ha dedicato a questo tema un importante convegno, che è stato anche l'occasione per lanciare una petizione popolare per avere una legge più severa ed efficace contro i maltrattamenti sugli animali. La LAV sarà nelle piazze di molte città in questo e nel prossimo fine settimana per raccogliere firme in calce a questa petizione. Tutte le informazioni naturalmente sono reperibili sul sito lav.it. Ha seguito il convegno per noi la nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis. "26 fascicoli al giorno per reati contro gli animali, uno ogni 55 minuti, circa 9.500 l'anno. Ogni 90 minuti una persona indagata, circa 5.850 l'anno. Sono queste alcune delle cifre emerse durante la tavola rotonda Animali maltrattati, voluta da LAV e Università iCampus il 20 marzo a Roma, dove insieme al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al sottosegretario alla Giustizia Ferraresi si è discusso della necessità di riformare la legge 189 sul maltrattamento animale. A 15 anni dall'approvazione di questa legge, in cui ricordiamo che il reato di maltrattamento è stato elevato da semplice contravvenzione a delitto, si sente ora la necessità di andare oltre. Sentiamo a questo proposito il ministro dell'Ambiente Costa. La norma del 2004, la 189, è stata una norma significativa, però la Repubblica è di più di 50 anni prima. Questo ci misura il fatto che dobbiamo recuperare ancora del tempo. Non possiamo aspettare altri 50 anni e più. Non c'è più quel tempo per aspettare. C'è il tempo di fare presto adesso. Quindi dal 2014 al 2019 ben vengono tanti disegni, proposte di legge. Mi piace molto che vengano dalle varie forze dell'arco costituzionale, perché vuol dire che c'è una sensibilità dell'arco costituzionale parlamentare, che non è di un partito, perché qua non è una battaglia di partito, è una battaglia di civiltà. Io vedo con molto favore l'inasprimento delle pene, ma non è il collegamento, quel malvelato senso di giustizia che uno, che in taluni casi uno può paragonarlo quasi alla voglia di rivalsa giustizialista, no, ma perché, come ha detto bene Gianluca Felicetti, se non c'è un inasprimento di pena, alcuni atti investigativi da parte delle forze di polizia non possono essere materialmente, giuridicamente condotti. Faccio un esempio: io non posso fare come facevo, che ho iniziato non per caso nel 1990, che facevo Spider-Man per fare dei sequestri. Io ho bisogno delle intercettazioni ambientali, ma le intercettazioni ambientali non è sufficiente che un reato sia delitto, deve essere punito in una certa misura, altrimenti comunque non le puoi fare. Intercettazioni ambientali, telefoniche e quant'altro, devo poter mettere delle microspie. Lo so che sembra un discorso fatto da un generale dei carabinieri, che ti aspetti che ti dica? Però lo vogliamo debellare questo sistema o non lo vogliamo debellare? Oltre agli strumenti di indagine da implementare, c'è l'annosa questione di come sistemare gli animali che, una volta sequestrati, ad oggi, nella maggior parte dei casi, restano in custodia del proprio aguzzino, perché scarseggiano i centri di recupero. Un esempio lampante sono i sequestri degli animali nei circhi. I centri di accoglienza e di recupero, ce ne sono pochi, vanno normati, condivido che vanno normati, e vanno sostenuti in termini economici. Un paese civile come l'Italia deve sostenere questi centri. Io sto proprio l'altro giorno, ho riattivato la commissione CITES presso il Ministero dell'Ambiente, e abbiamo iniziato proprio da questo, al di là delle autorizzazioni previste. Allora ho iniziato proprio a discutere di questo. Datemi delle risposte, perché mi servono per attivare e distribuire sul territorio questi centri. Durante la tavola rotonda è stato inoltre presentato il primo master universitario di primo livello in criminologia e tutela giuridica degli animali, a cura di Carla Campanaro e Ciro Troiano, direttori scientifici del master. Sentiamo Carla Campanaro, avvocato LAV. Noi non vogliamo che sia un percorso di studio incentrato solo sul reprimere condotte. Questo l'abbiamo visto in tanti anni di lavoro con l'ufficio legale della LAV. Non serve reprimere se non spieghiamo perché tutelare gli animali. Il nostro obiettivo è quindi quello di aprire la mente sul perché oggi c'è bisogno di un cambio culturale, sul come ci relazioniamo in particolare non solo ai cani e gatti, ma a tutti gli animali che oggi sono oggetto di pratiche commerciali. L'idea è di fornire strumenti interpretativi che possano orientare verso una, diciamo, corretta educazione e formazione sulla protezione degli animali, e quindi quello che noi crediamo molto, che è la prevenzione di questi reati. Quindi repressione sì, ma anche prevenzione, ed ecco perché speriamo che poi sia destinato in particolare agli operatori del settore, quindi forze di polizia giudiziaria, magistratura, medici veterinari, ha anche una parte nutrita di approfondimenti sugli aspetti medico-veterinari, e tutti coloro che quindi oggi devono confrontarsi con questo tema. Oh, I can't breathe. All that I ever prayed, love would be where I stay. Oh, I can see all that I believe, and know that I played the game, but I'll never. Oh, on my knees. In inglese Speranza è una mamma orango di 30 anni che ha rischiato di morire in Indonesia per essere stata raggiunta da 74 pallini sparati con un fucile ad aria compressa. Hope è stata trovata a terra in fin di vita con fratture e lesioni in varie parti del corpo. Curata in una clinica veterinaria grazie al Sumatran Orangutan Conservation Program, Hope è stata salvata, ma resterà probabilmente menomata a vita, priva della vista. Nelle settimane scorse un figlio di Hope, malato e malnutrito, era morto nonostante le cure, mentre due giovani oranghi erano stati tratti in salvo. Tutto questo avviene nella zona di Subulus Salam, nella CE, un'area in corso di devastazione a causa delle piantagioni di palme da olio. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni dedica la sua rubrica di cucina non violenta questa settimana proprio a Hope. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my settimana ci proiettiamo in Indonesia con una ricetta omaggio, una sorta di lettera di scuse per Hope, mamma orango per poco scampata alla follia umana. Ecco la ricetta del gado gado. Per la salsa un cucchiaino di olio di cocco, mezza cipolla rossa, due spicchi di aglio, mezzo peperoncino, un cucchiaio di zenzero fresco tritato finemente, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, due cucchiai di arachidi tostate, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di succo di lime, un cucchiaio di zucchero di canna, 150 ml di latte di cocco. Per comporre il piatto, del tofu affumicato tagliato a bastoncini, del coriandolo fresco e delle verdure fresche, carote, fagiolini, cavolo cappuccio, cavolo viola, cavolo fiore, eccetera. Tritate le arachidi per un minuto, fate riposare il mixer, quindi macinate ancora per un minuto. Ripetete l'operazione una terza volta e se necessario aggiungete un cucchiaio di latte di cocco. Dovrete ottenere una crema piuttosto liscia. A parte, tritate la cipolla e fatela scottare con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete l'olio di cocco, l'aglio tritato, il peperoncino, lo zenzero e la curcuma e fate soffriggere per 5 minuti. Unite il resto degli ingredienti e bagnate con poco latte di cocco. Aggiungete la crema di arachidi e il restante latte di cocco e fate ritirare. A fine cottura tritate il tutto con un frullatore ad immersione e se necessario aggiungete ancora un po' di latte di cocco. A parte tagliate le verdure a bastoncini, fatele saltare in padella con poco olio di cocco a fuoco vivo e per pochi minuti, dovranno rimanere ben croccanti. Togliete dal fuoco e fatele raffreddare. Passate in padella anche il tofu affumicato. Servite le verdure e il tofu accompagnando con la salsa alle arachidi, decorando con del coriandolo fresco. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. always coming, love was always going. No one really knows who's letting go today. Walking away. If we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing you were mine. All mine. So if you wanna love me, darling, don't refrain. Or I'll just end up walking in the cold November rain. Do you need some time? Chiudiamo ricordando che si avvicina la Pasqua con la consueta strage di agnelli, cuccioli che sono al tempo stesso simbolo di innocenza e tenerezza e simbolo di tradizioni religiose sanguinarie, in una dissociazione emotiva e cognitiva di massa che non smette di impressionare. Contro l'inutile strage degli agnelli si mobilita quest'anno un gruppo di artisti della neonata associazione Artisti Uniti per gli Animali. Animatore del progetto è il famoso disegnatore Bruno Bozzetto, che partecipa alla campagna con un suo disegno espressamente creato per il manifesto che sarà affisso nelle vie delle principali città italiane. Bozzetto e gli altri 70 artisti, fra scrittori, pittori, poeti, musicisti, fanno notare che solo in questo periodo dell'anno vengono uccisi circa 900.000 agnelli, cuccioli di poche settimane, strappati alle proprie madri e sgozzati al macello. È una storia nota, tristemente nota, della quale è giusto ricordarsi nei giorni che precedono la Pasqua. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be that man. Yet missing every single scene so bad. And Rose we led. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Appuntamento fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.